Si trattava in quel caso di un edificio nella Bolognina che era stato acquistato e poi ristrutturato, un po' anche quello, lo stesso schema che vediamo in questo caso nella zona fiera. Io, osservando appunto queste dinamiche, le leggo attraverso, diciamo, quello che è un processo di professionalizzazione di tutto quello che è il business degli Airbnb in città, che poi configura casi come questo, che sono veri e propri casi di acquisto speculativo, dal momento che l'edificio viene interamente convertito poi in bed and breakfast. E rispetto anche a quello che dici sul calo del canone concordato, anche qui vedo un legame, perché nel caso per esempio del bed and breakfast in questione degli Airbnb, pensa che, stavo prima guardando, questi annunci in questo edificio hanno un costo che va dai 100 ai 380 euro a notte, quindi diventa evidente perché per un proprietario è più conveniente utilizzare questa formula piuttosto che mantenere quello che è un affitto tradizionale. Il problema poi è che si pone poi a livello di tutta la città, nel momento in cui il canone concordato non diventa più una misura in qualche modo conveniente per i proprietari a fronte di un rialzo così alto poi dei prezzi. Al di là degli interi edifici, diciamo, destinati ad affitti turistici, non c'è, immagino, una stima su quanti magari anche inquilini di appartamenti sparsi qua e là si siano visti allo scadere del contratto non rinnovare l'affitto proprio perché è più remunerativo destinarli al turismo, quegli alloggi? Esatto, esattamente come dici te, è un fenomeno che emerge, diciamo, nei suoi casi più eclatanti come questo, che però ci ricordano come da un lato si assiste a un'espulsione visibile di queste popolazioni in casi come questi, ma che poi dietro nasconde tutta un'espulsione più silenziosa, tanto di fasce come di famiglie, di giovani coppie, quanto poi anche degli studenti, che è determinata da un aumento più generale dei prezzi dell'affitto. Sono, penso, all'ordine del giorno storie che tutti conosciamo di persone che non si vedono rinnovare i propri contratti di affitto, oppure vengono aumentati in maniera vertiginosa. È chiaro che Airbnb in questo senso, anche, diciamo, come dice poi la vice sindaca, non è l'unico fattore, ma sicuramente in un contesto come quello di Bologna, già caratterizzato da una tensione abitativa e da una forte domanda e crescente domanda di abitare, dal momento che anche il numero degli studenti continua ad aumentare, anche i lavoratori temporanei sono in aumento, questo va poi a causare una eccessiva domanda rispetto all'offerta che viene ridotta dalle piattaforme. Tu dicevi in apertura la questione della professionalizzazione, cioè ci sono sempre più intermediari, non sono necessariamente i proprietari degli immobili quelli che poi le gestiscono gli affitti turistici, e proprio in virtù di questa nuova, chiamiamola così, attività economica, servirebbe quindi una regolamentazione più stringente? Esattamente, sì. Apro una piccola parentesi sulla questione della professionalizzazione, perché quello che vediamo, e anche gli articoli che tu citavi, mostrano effettivamente un calo degli annunci che non segue la classica dinamica fisiologica che vede un calo nei mesi invernali e una ripresa nei mesi primaverili del numero di annunci in città. Effettivamente c'è questo calo, ma non lo vedo in contraddizione con questa dinamica di professionalizzazione, perché, come abbiamo visto durante la pandemia, a fronte di una diminuzione della domanda turistica, quello che si assiste è un processo selettivo dei proprietari che possono utilizzare Airbnb e per i quali è un'attività conveniente, che ha portato già durante la pandemia all'emergere appunto di tutti questi intermediari, alla proliferazione di queste compagnie di gestione, che poi hanno anche una maggiore capacità di lobbying, come stiamo vedendo, dal momento che hanno anche impugnato al TAR la richiesta di regolamentazione da parte del Comune di Bologna. Rispetto a questo, occorre ribadire che il Comune di Bologna si sta muovendo, dal mio punto di vista, in una direzione giusta, appunto cercando appunto di mappare questo fenomeno attraverso il cambio di destinazione d'uso che viene reso necessario per aprire un Airbnb. Allo stesso tempo occorre ribadire che questa è una misura estremamente tardiva da un certo punto di vista, e è la prima di una serie di misure che poi dovrebbero andare nell'ottica di una regolamentazione anche del numero di Airbnb che possono essere aperti in determinate zone e del grado di professionalizzazione, che è un altro aspetto che in Europa viene cercato di normare. Quindi, ecco, si tratta sicuramente di una primissima misura, appunto, a cui dovrebbero, nell'ottica di governare il fenomeno, seguirne delle altre.